Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. È la prima puntata in onda nel mese di marzo 2017 e udite udite, la redazione compie 5 anni. Quindi potremmo dire stiamo lustri, perché da un lustro incessantemente, senza conoscere pause estive o festive, questa trasmissione vi racconta l'arrembante galassia animalista, antispecista e vegan. Rimanete con noi e fateci gli auguri, perché siamo cinquenni. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Francesca De Matteis e Lorenzo Corrado. La notizia della settimana che ci interessa di più riguarda i lupi e in particolare riguarda l'accantonamento momentaneo del famigerato Piano Lupo, l'ennesimo progetto politico che propone di risolvere l'interazione tra umani e altri animali con le doppiette. L'aggiornamento sulla questione è a cura del nostro Lorenzo Guadagnucci. Il ministro dell'Ambiente, il commercialista bolognese Gianluca Galletti, alla fine ha dovuto rinunciare al voto sul suo piano lupo, previsto durante la conferenza Stato-Regioni del 23 febbraio scorso. Ma il ministro non demorde e pare intenzionato a tenere duro anche sull'unico punto dei 22 previsti, davvero contestato dal fronte animalista e ambientalista, ossia la possibilità di uccidere legalmente fino al 5% dei lupi oggi presenti in Italia, circa 1.500 secondo le incerte stime disponibili. 11 regioni hanno raccolto la richiesta di ambientalisti e animalisti bloccando finora l'approvazione del piano. Ricordiamole, sono Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Puglia. 11 regioni su 20 di vario orientamento politico. Galletti però ritiene che il superamento del divieto di uccidere i lupi in vigore da 46 anni sia determinante, per quanto abbia sostenuto in innumerevoli interviste e dichiarazioni che gli abbattimenti sarebbero in realtà solo un'extrema ratio cui ricorrere in casi molto limitati e sotto stretto controllo. Una tesi che però cozza piuttosto visibilmente con l'asse stabilito dal ministro con gli allevatori, che insistono per avere un'approvazione integrale del piano e sembrano considerare l'eliminazione fisica dei lupi ben più che un'extrema ratio possibile in casi sporadici. Gruppi di allevatori si sono spinti fino a Roma per un sit-in e chiedere la rapida approvazione del piano lupo nella sua integrità, per quanto il piano si presenti ufficialmente come un provvedimento di tutela della specie. La partita è ancora aperta e la mobilitazione del mondo animalista è ancora intensa. Invitiamo il governo e le regioni, hanno spiegato le associazioni Lega Nazionale Difesa del Cane, EMPA, LIPU, LAC, LAV, Animalisti Italiani e Lega Difesa Animali e Ambiente, a fare il bene dei lupi, patrimonio indisponibile dello Stato, escludendo ogni ipotesi di soluzioni pasticciate o di compromesso che contemplino abbattimenti. Come è nato il movimento vegetariano italiano? Chi erano i primi difensori dei diritti degli animali? Sapevate che già negli anni 30 si parlava di seitan, tofu e latte di soia? E perché la dittatura fascista vedeva di malocchio il fiorire di tante associazioni in difesa degli animali? Per trovare una risposta a queste domande, Eugenio Leucci, dottore di ricerca in storia moderna e contemporanea, ha scritto un bel progetto dal titolo «Per una pace integrale». La nostra corrispondente da Roma, Francesca De Matteis, ci ha fatto scoprire questo progetto e ha intervistato per noi Eugenio Leucci. Eugenio si è di recente lanciato in un'avventura editoriale che ci ha particolarmente incuriosito. Si tratta di un progetto di crowdfunding per realizzare un libro che ricostruisca le origini del movimento vegetariano e animalista in Italia. Il libro si chiama «Per una pace integrale, storia del vegetarismo in Italia». Allora, l'idea è nata da un precedente studio che stavo conducendo. Io ho approfondito nel passato la storia del movimento vegetariano e animalista inglese, in particolare l'opera e il pensiero di Henry Salt, che è stato il primo a parlare in Europa dei diritti degli animali, in chiave antispecista. E allora mi è sorta una domanda: che cosa si faceva in quel periodo in Italia? C'era un movimento in Italia che può essere paragonato in qualche modo a quello attivo in Inghilterra in quel periodo? E allora ho iniziato a gettare le basi della ricerca che adesso vorrei portare avanti. E effettivamente mi sono accorto che sin dalla fine dell'Ottocento, ma soprattutto nei primi decenni del Novecento, anche qui in Italia stava prendendo forma un movimento particolarmente attento ai diritti degli animali e a mettere in discussione il dominio dell'uomo sulle altre specie. Dici che raccontare le origini del movimento vegetariano e animalista possa contribuire alla causa dei diritti degli animali e alla costruzione di una pace integrale. Riesci a spiegarci come questa cosa potrebbe succedere? Sì, ecco, una cosa che ho notato è che nell'animalismo italiano c'è una scarsa attenzione per la propria storia e ovviamente se non è in movimento a scrivere la propria storia ci penseranno gli altri e magari in chiave anche abbastanza negativa e critica. Quindi il fatto di riprendere le origini del movimento e del pensiero animalista, in particolar modo antispecista, può contribuire a sviluppare una cultura che metta in discussione il predominio dell'uomo sulla natura e in particolare sulle specie animali. E in questo senso, diciamo, ho preso una frase, un'espressione che era di Edmondo Marcucci, che è stato appunto insieme ad Aldo Capitini uno dei fondatori della società vegetariana italiana nel 1952, e Marcucci parlava esplicitamente di pace integrale. E presupponendo appunto che l'unica forma di pace totale realizzabile è una pace che metta finalmente armonia non solo fra l'uomo e l'uomo, ma in generale fra l'uomo e il resto del pianeta. Per ulteriori informazioni e per sostenere l'iniziativa, www.produzionidalbasso.com. Eugenio Leucci si sta autofinanziando e cerca sostenitori attraverso il crowdfunding. Pubblicheremo nel nostro blog un link per chi volesse aiutarlo a realizzare questo interessante progetto. Share a moment, let's meet. We're on fire with heat, you know, not me. We all start suddenly, and you care, it's so far away. Synchronicity, it's obscurity, it's complexity. Per gli amanti del piccante, una notizia che diverte o preoccupa a seconda dei punti di vista. Il 21 febbraio scorso il Secolo XIX Online ha pubblicato il filmato di due cinghiali scostumati che si accoppiavano in piazza Terralba, nella zona di San Fruttuoso, tra i palazzi, le automobili e i passanti. Quando ci vuole, ci vuole. Sembrano dirci due spudorati amanti che, con un pizzico di perversione, hanno scelto l'asfalto invece del morbido manto erboso per dar sfogo al loro ardore pelvico. Naturalmente il giornale commentava stigmatizzando temi quali igiene, sicurezza e viabilità. ma aggiungeva che qualche ora prima dei cinghiali avevano occupato il giardino di una scuola. E questa seconda notizia a noi è sembrata interessante, in quanto spiegava che in presenza di bambini e ragazzi era stata esclusa la soluzione delle doppiette, preferendo attendere che i cinghiali riprendessero la via del bosco spontaneamente, cosa che hanno puntualmente fatto. Dunque, una convivenza tra specie è possibile all'insegna del rispetto. E dopo Genova un'altra repubblica marinara, andiamo un po' più a sud, siamo a Pisa. Sul sito dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Pisa è stata intercettata la foto di un barboncino in carne e ossa, pignorato a un allevamento insieme con una collezione di libri, un tavolino e oggettistica varia. Come riporta il quotidiano La Nazione, si tratta di una femmina di barboncino toy, nata nel 2009 con tanto di numero di microchip e certificato dell'ENCI, Ente Nazionale Cinofilia Italiana. Questa barboncina è stata battuta all'asta al prezzo di 200 euro, ma può un cane finire nell'elenco delle vendite giudiziarie? Secondo le ultime disposizioni di legge, gli animali da affezione o di compagnia non sono più pignorabili. In questo caso però c'è un cavillo. Il cane infatti proviene da un allevamento e nei prossimi giorni anche altri compagni di sventura di questo allevamento fallito di Castelfranco di Sotto potrebbero seguire lo stesso iter. Anche in questo campo la linea rossa che divide gli animali da reddito e quelli da affezione segna diritti e destini diversi. È una linea rossa molto pericolosa che noi sosteniamo di dover combattere per cancellarla definitivamente, dato che appunto è una linea che non è mai ferma e potrebbe improvvisamente muoversi a nostro discapito, facendoci ritrovare tra i dannati della terra. E dopo le repubbliche marinare di Genova e Pisa ci trasferiamo in un altro posto di mare, più esattamente all'isola di Réunion, pieno oceano indiano, dove un 26enne è stato aggredito da uno squalo mentre faceva bodyboarding, che consiste nello scivolare sulle onde con la pancia sul surf. Lo squalo gli ha reciso l'arteria femorale. Eppure il ragazzo aveva lavorato come avvistatore di squali, ma nonostante questo si trovava con la tavola in una zona dove non doveva stare, un'area vietata proprio perché a rischio, in quanto in quella zona ci sono stati 20 attacchi negli ultimi 5 anni, 8 dei quali mortali. Kelly Slater, 11 volte campione del mondo di surf, dopo questa ennesima tragedia ha chiesto un abbattimento di massa di squali. Abbattimenti, dice, da fare ogni giorno, ed è stato travolto da un'ondata di indignazione da parte di chi ritiene, al contrario, che il problema non sia lo squalo ma l'uomo. Voi andreste nella savana vestiti da antilopi? La domanda è provocatoria, ma non troppo. La pone Alberto Luca Recchi, fotografo subacqueo e scrittore, e spiega: lo squalo vede la sagoma del surf e cade in errore, pensa che si tratti di una tartaruga o di una foca, cioè di una preda, e prova a mangiarla. Poi si accorge di aver sbagliato perché noi uomini non rientriamo nel menù degli squali e lascia la presa. Però ormai il danno è fatto. Recchi ha conosciuto il suo primo squalo oltre 30 anni fa. E racconta: cercavo in apnea delle aragoste, ho infilato la mano in una cavità quando mi sono accorto che dietro c'era una strana presenza. Era uno squalo. Allora ho tirato via la mano per la paura e mi sono ferito. Quindi usciva del sangue, ero nella condizione peggiore possibile. Lui mi ha girato attorno, poi se n'è andato. Da quel momento sono rimasto stregato. Sotto le ciglia di questi alberi, nel chiaroscuro dove son nato, che l'orizzonte prima del cielo era lo sguardo di mia madre, che Fernandinho come una figlia mi porta a letto caffè tapioca, e a ricordargli che è nato maschio, sarà l'istinto, sarà la vita, e io davanti allo specchio grande mi paro gli occhi con le dita, a immaginarmi tra le gambe una minuscola fica. nel dormiveglia della corriera, lascio l'infanzia contadina, corro all'incanto dei desideri, vado a correggere la fortuna. Nella cucina della pensione mescolo i sogni con gli ormoni, ad albeggiare sarà magia, saranno segni miracolosi. Perché Fernanda è proprio una figlia, come una figlia vuol far l'amore, ma Fernandino resiste e vomita e si contorce dal dolore. E allora il bisturi per seni e fianchi, una vertigine di anestesia, finché il mio corpo mi rassomigli sul lungomare di Bahia. Torniamo sulla notizia della morte di Tom Regan, avvenuta lo scorso 17 febbraio. Avevamo annunciato la notizia nella scorsa puntata e oggi vi proponiamo un approfondimento a cura di Luigi Lombardi Vallauri, professore di filosofia del diritto, amico degli altri animali e della non violenza. Regan è forse l'animalista filosofico numero uno del mondo, come difensore strenuo dei diritti degli animali, quello che proprio introduce quasi questa terminologia. Sono oltre 40 anni dal 1975 di scrittura, insegnamento universitario, comunicazione, diretta e mediatica, testimonianza, militanza, fondazione e promozione culturale. Non conosco un'altra vita così massicciamente, così vocazionalmente dedita alla difesa con la ragione e col cuore dei diritti animali e così influente a scala mondiale. Nel 1985 Silvana Castiglione pubblicava il libro pioneristico, per essere di un'italiana, I diritti degli animali, antologia di scritti essenziali preceduta da un illuminante saggio introduttivo della curatrice. Beh, non c'era un solo scritto italiano e dei 15 saggi selezionati 4 erano di Regan. Io Regan l'ho conosciuto anche personalmente in alcuni incontri pubblici. Per esempio, posso vantarmi di una mia foto con lui del 2001 nell'edizione italiana del suo libro più autobiografico, La mia lotta per i diritti animali. E ricordo anche una presentazione di Gabbie Vuote insieme a lui a Vicenza nel 2005. Nei giorni scorsi, rileggendo anche il suo libro teoricamente fondamentale, I diritti animali del 1983, scritto, cito, lavorando almeno 18 ore al giorno per quasi un anno intero e, cito ancora, frutto di più di una decade di pensiero faticoso circa i diritti degli animali, ho riconosciuto il passo pesante del filosofo analitico insieme al battito di un cuore appassionato. E nei suoi libri, specialmente nelle parti autobiografiche, non mancano anche sprazzi di scriver bene letterario. Ricordo di avergli detto quella volta a Vicenza, con sua approvazione, che lui è antipatico perché ha ragione, noioso perché discute le idee proprie e altrui con infinita pazienza e prezioso. Antipatico, noioso e prezioso. Estraggo un po' a caso dal formidabile contributo complessivo alcune idee o espressioni che mi hanno particolarmente toccato. Una, ovviamente, è la formula animali dotati di valore intrinseco in quanto soggetti di una vita, formula che sta al centro della sua teoria dei diritti animali come applicazione della sua teoria generale dei diritti e che genera gli argomenti critici rivolti in particolare alla posizione utilitarista di Singer. Un'altra è la distinzione tra damasceni, vinciani e temporeggiatori che serve a descrivere i diversi modi della conversione dal paradigma del dominio al paradigma del rispetto. Un'altra è il suggerimento di chiedersi ognuno in prima persona quello che tu accetti, anzi incentivi coi tuoi consumi, che venga fatto agli animali, accetteresti che venisse fatto a un uomo o a un animale che conosci e a cui vuoi bene? Provate a farvela questa domanda. L'animale a cui volete bene non è diverso ontologicamente dagli altri. Una penultima cosa. Per me, che amo profondamente il pensiero e la spiritualità indiana, sentir dire a Reagan: nessuno che si metta a pensare alla violenza può evitare di leggere Gandhi. E io dunque lo lessi. Centinaia e centinaia, forse migliaia di pagine. Negli ultimi 12 anni specialmente, quando ho scritto sempre di più, ho cessato di leggere, ad eccezione, come ho detto, di Gandhi. Lo lessi con enorme energia e dedizione. In quel periodo, l'estate del 1972, Gandhi cominciò a scuotere la mia coscienza circa il posto degli animali nello schema morale delle cose. La pratica della ahimsa, della non violenza, non si ferma ai confini della specie cui apparteniamo. Rifiutarsi di mangiare carne diventa un dovere. La voce della carne nel mio piatto cominciava a diventare accusatoria, era quella di Gandhi. Sul piano del puro ragionamento, le argomentazioni di Gandhi erano inattaccabili. Questo è musica per le mie orecchie. Ultima cosa, Reagan è al tempo stesso umile e micidiale. Umile perché discute a fondo tutti e perché riconosce di dovere la sua conversione razionale e vocazionale alle circostanze. E poi perché prende da Gandhi anche il metodo della non violenza nei rapporti intellettuali con gli avversari e nell'azione politica. È micidiale perché dice le cose accuratamente come le pensa e il pensiero logico non è aggressivo, è intrinsecamente micidiale. Reagan è al tempo stesso gandhianamente umile e gandhianamente micidiale. Posso solo terminare dicendo di lui quello che dico sempre quando muore qualcuno a cui teniamo. Ci dà dolore che sia morto, ma ci dà gioia che sia esistito. Reagan non lo abbiamo perso, lo abbiamo avuto. Perché quando decise di assumere un cognome d'arte lo fece con lo stesso spirito di Malcolm X, che ai neri americani negli anni 60 una sera disse: per questa società noi, gente di colore, non esistiamo, dunque non ci chiameremo più Smith, Johnson, eccetera. Il nostro cognome d'ora in poi sarà X, a simboleggiare l'anonimato e il silenzio ai quali ci condanna questo sistema infernale. E siccome tutt'oggi le persone transgender vengono emarginate e discriminate, Barbara ha deciso di chiamarsi Barbara X. Parliamo di lei in quanto scrittrice e l'intervista l'ha raccolta la nostra Roberta Marino. Scrittrice, antifascista, antispecista. Barbara X, nei suoi Agnes Books, porta un po' di se stessa, del suo attivismo e delle sue battaglie. Non a caso, i suoi sono libri autoprodotti, fuori dal mercato e da quella logica del consumismo che si insinua anche nel settore culturale. Tra i titoli, Jeanne Étoile de Combat e poi il suo seguito, Jeanne II Avenue de Destin, dove nella storia della protagonista vegetariana per ragioni etiche si svela la realtà sommersa e scomoda del transessualismo. O ancora Resistenze, i cui brevi racconti narrano le vicende di personaggi accomunati dalla volontà di resistere al sistema, dal toro nell'arena al trans in strada al poeta detenuto in carcere. Storie dove si intrecciano e si intersecano vari temi come sessismo e specismo. A Barbara X abbiamo chiesto qual è il legame tra di loro. Sentiamola. mi sono sempre posta in un certo modo riguardo al mio non mangiare, non sfruttare gli animali, non mangiare quindi pezzi dei loro cadaveri o i loro derivati. L'ho fatto, ma non potrei neanche dire principalmente, l'ho fatto solo per una questione che è politica, sociale, legata proprio anche a quella che è la mia esperienza umana, no? L'esperienza umana di transizione di genere, da un genere all'altro. Quindi in virtù di questa cosa mi sembrava quantomeno un paradosso da incoscienti continuare a sfruttare qualcuno quando ci sono tante individui della mia specie che comunque passano dei gran brutti momenti per una questione di discriminazione, per il fatto che ci sono tante persone della mia stessa specie che li reputano esseri inferiori. È ciò che accade puntualmente anche a chi umano non è, no? Lo sappiamo benissimo. E io appunto voglio con la mia scelta, ho sempre voluto con la mia scelta ormai pluridecennale, no? Di non voler andare a devastare la vita a chi non si può difendere, a chi viene considerato un essere inferiore senza nessun motivo, solo perché appunto non può difendersi, non utilizza il nostro linguaggio. È lo stesso ragionamento che hanno fatto signori, passatemi l'eufemismo, come Goering, Hess, Himmler, no? Sappiamo benissimo perché cosa, no? Quando parlavano di razza ebrea, razza tra l'altro, vabbè. E quindi è lo stesso tipo di ragionamento. Lo so che molte persone questa cosa gli fa storcere il naso, perché dicono: come non puoi paragonare l'animale all'essere umano, ma come ti permetti qua là? Eppure, volenti o nolenti, la dinamica è la stessa. Ci sono nella nostra società delle sacche piuttosto estese di medioevo mentale che oggi come oggi appare senza speranza, anche se si sono verificate delle cose nella nostra epoca che nella mia, quando ho cominciato io a prendere coscienza intorno a questa questione, erano impensabili. Io penso poi che chi si avvicina a un determinato modo di concepire il proprio vivere, il proprio considerare anche gli altri, i non umani, possa avere una visione poi differente su chi è della sua stessa specie, ma magari è a vario titolo discriminato, no? Quindi partendo dall'aspetto dalla donna, anche dalla donna stessa, quindi parliamo di sessismo in questo caso, partendo anche da chi nella piramide sociale descritta da Horkheimer sta nei piani inferiori rispetto a quello che è l'uomo bianco, ricco, eccetera eccetera. Sotto ci sono le persone che vengono dai paesi poveri, ci sono le persone diverse per orientamento di genere, le persone diverse per identità di genere, ci sono le donne, ci sono migranti, e poi gli hanno fatto la famosa domanda e poi si arriva al pavimento, no? Ed è finito qua, no, sotto il pavimento c'è l'indescrivibile sofferenza degli animali. No? E siamo in chiusura, abbiamo festeggiato oggi il quinto compleanno della trasmissione Restiamo Animali con le voci e l'impegno di Barbara X, Roberta Marino, Lorenzo Guadagnucci, Francesca De Matteis, Eugenio Leucci, Luigi Lombardi Vallauri, Gianni Ferrarotti che armeggia algoritmi dietro le quinte, l'assenza di Giuseppe Coco e l'onnipresente Camilla Lattanzi. L'appuntamento con la prossima puntata di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.